fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, buonanotte o buongiorno o buon pomeriggio in base a quando ci state ascoltando. Questo è sabato 2 giugno e siamo in diretta da Resto Radio Convento, la web radio del nostro locale. E come sapete diamo spazio e diamo modo di raccontare come sta andando la serata e soprattutto perché ci sono qui certe persone ai nostri ospiti. E lo facciamo inaugurando la nostra serata con... Chiara? Oh, Chiara, benvenuta, benvenuta. Chiara, ciao. La prima ospite, la prima protagonista e la prima festeggiata e festeggiante, perché sei entrambi i ruoli, anche se festeggiante non esiste come parola. Allora, Chiara, intanto da dove vieni? Da Milano. Ah, di Milan, la Chiara di Milan, quindi sei una che non perde tempo. No, sei una... corro sempre. Sempre di corsa, sempre di corsa. In ritardo. Di che zona di Milano? Milano centro, Linate. Scusa, Milano centro, sì. Pensavo sotto la Madonnina del Nuovo. No, diciamo che sono vicino all'aeroporto, che praticamente è in centro Milano. No, ok. Perché c'è un po' quella vita lì a Milano, sempre frenetica, non ci si ferma mai, è l'ape... E la pericena, e il sushi, tutto quel mondo lì. La pericena buona. No, cos'è? Quella mi manca. L'aperitufo, non sai cos'è Non sai cos'è l'aperitufo? No, l'aperitufolo mi manca. Allora, perdonami Chiara, la tua festa è bellissima, però sull'aperitufolo dobbiamo perderci 30 secondi. Intanto mi presento, sono Vittoria, la testimone di Chiara. Oh, benvenuta Vittoria. Grazie. Ah grazie. Sì, sei quella a cui mi sono presentato come pareggio. Brava. Bravissimo, esatto, bravo. Grande zio. Vedi che anche lei è di Milano, lo zio è di Milano. Comunque l'aperitufo è semplicemente l'aperitivo su una piscina. Stile Dubai. Esatto, stile Dubai, sì. Scusa, piscina di un locale? Di un locale, sì. O anche privato? No. Beh, volendo anche privato, però solitamente andiamo a quelli pubblici, piscina pubblica, però dove c'è anche la discoteca, e la domenica sera fanno l'aperitufo. Solo domenica? In alcuni posti solo la domenica, altri sempre. Ma con costume incorporato? Sì. Quindi si può anche fare bagno? Dopo sì. Ecco, il tuffo c'è allora. E tu non sei mai andata all'aperituffo? Io personalmente no, però sei persa? Mi bella andare, divertite. Domenica prossima dovete portarmela. Evitando le congestioni, però. E infatti quello stavo dicendo, l'aperituffo è la bestia nera delle mamme, perché le mamme dicono sempre che si fa il bagno solo dopo 2 ore aver mangiato o bevuto. Esatto. Anche 3. Anche è vero, bravo. In Calabria si dice 4, addirittura. Peperonata. E soprattutto se bevi freddo, come ad esempio i cocktail, quelle cose lì, sono 2-3 ore sicure, quindi le mamme non sono contente. Ma le mamme non lo sanno. Le mamme non lo sanno, non lo sanno assolutamente. Tra l'altro, da un punto di vista cromatico, voi non lo saprete mai, perché purtroppo, per fortuna, la radio non si vede ma si sente solo. Queste ragazze hanno deciso di omaggiare in questa serata una famosissima corsa legata alla città da cui viene Chiara e da cui vengono loro, che è la Milano-Sanremo. Infatti loro sono di Milano, Sanremo è la città dei fiori, e le altre ragazze e le amiche si sono vestite tutti coi fiori, sì, e hanno voluto fare questo omaggio. Me la sono inventata adesso, però ci stava. Però è vero, no è vero, confermiamo. Confermo che non si sono messe d'accordo, ma ne ho contate almeno 4. Non potete vedere, ma siamo tutte a fiori. Si sono vestite tutte fiori, cioè non da fiore, con i vestiti fiorati, sì, anche sì, se sì. Sarebbe stato bello vedervi. Abbiamo anche dei tatuaggi con i fiori, tra l'altro. Sì? Ah, però, anche tranne la sposa, che è vestita da sposa, com'è? No, vabbè, da sposa, non da sposa, da simile, da sposa. Da facsimile. Da sposa in festeggiamento. Pseudo sposa. Da pseudo sposa. Allora, Chiara, da Milano, non ci hai detto quando ti sposi e con chi? Il 14 luglio con Luca. Con Luca, molto bene. Da quanto vi conoscete? Attenzione a quello che dici, Chiara. Quando ci conosciamo? Io pensavo fosse la domanda più facile, se già questa la mette in difficoltà. Ci conosciamo da 6 anni, stiamo insieme da 5. Ci conosciamo da 6, quindi vabbè, quell'anno lì Baldoria, no? Ma proprio tanta. Ah, ok, tanta ok. Baldoria. Quell'anno lì è proprio, e poi... Una delle mie testimoni sa. Ciao, sono Deborah e confermo, altro testimone di Chiara. E come fai a confermare? Nel senso, quale diritto ti prendi per confermare tutto ciò? Perché praticamente li ho fatti conoscere io. Ah! Ho visto tutta la storia, ho visto tutto. Allora, mi prendo io in questo momento 30 secondi, perché voi siete l'ennesima conferma di una statistica e sondaggio che stiamo portando avanti da settimane, che... Nonostante nel 2018 i social network, Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta regnino sovrani, a far innamorare le persone sono sempre amiche o cugine. Tranne nel mio caso. tranne nel tuo caso, ma tu ne parleremo più avanti. No, dicevo, c'è una statistica che qui dentro viene confermata quasi sempre, che qualsiasi persona che si metta qui, e di solito la festeggiata, alla domanda come vi siete conosciuti, allora la mia amica ci ha presentati, mia cugina ci ha presentati, una addirittura è venuta a dirmi, è stata durante una cena con la testimone seduta e messa lì, in cui è stato combinato l'incontro. Cioè la testimone ha chiamato la futura sposa e il futuro sposo alla stessa cena perché voleva farli conoscere, e si sono sposati. Guarda che bellissimo. La cosa è andata un po' così anche con loro. Più o meno, esatto. Ah, tu anche tu, mafiosa, quindi mafiosa. Proprio di un... E allora come mai? Cosa vedevi in loro? Ah, vedevo due single disperati, ha detto vabbè, esatto, facciamo una buona azione, no? Più o meno sì. Beh dai, però parliamone così, cioè che caratteristiche vedevi compatibili secondo te, visto che conosci entrambi a quanto credo? Cioè è tirato a caso, dai. Eravamo gli unici amici single, dovevano copiarci. Ah, dovevate. Ah, c'è una compagnia di amici, esatto, gli unici single, quindi detto fanno, cioè poverini, vengono in giro con noi, fanno sempre una figuraccia. Non c'era qualcun altro single che poi dopo... No, non litigate però adesso, non litigate qui dentro. E invece a te com'è andata? Ha detto tranne me? Tranne te. Sì, sì, questo gioco di cavi. Come non è mai andata, cioè nel senso, sono single. Ah, okay. Nessuno... Ah, quindi era vero che tu, cioè prima che ho detto, quando ho detto è possibile che vi vengano ad invadere qui dentro, e tu mi hai detto, beh, ma vengano pure, quindi era vero, cioè ti interessava veramente. Bene, bene. Quindi se siete appassionati di aperitufo, intanto, perché è una caratteristica fondamentale per diventare futuri morosi di... Vittoria, grande Baldoria, quindi già... Cioè, nel senso, la vita sentimentale con Vittoria già nel nome. Esatto, già nel nome ha divertimento puro. E allora Vittoria, direi che è il momento per dare 3-4 indicazioni dell'identikit del tuo lui tipo. Del mio lui tipo? Allora, l'abbiamo già parlato oggi, Vittoria, sì, dai. Allora, prediligo i cubani, tra l'altro, però vabbè, anche gli italiani però, vanno bene. Diciamo, parte forte, eh. Tra l'altro ce ne stiamo fottendo beatamente del matrimonio di Chiara. Ci stiamo parlando di tutt'altro. Ma chi vuole parlare del matrimonio quando c'è una cugina single da... Esatto, da piazzare. E poi, ma scusa, cugina single, e non ti sei rivolta a lei, che ha un'agenzia di incontri, sì, praticamente. Sì, sono il dottor Stranamore, lei, esatto, è il futuro marito. Non conosciuta in realtà. Allora aspetta, ascolta bene che ti dà le caratteristiche. Ha finito gli amici single. Ah, ho capito. Ascolta bene che ti dà le caratteristiche, vai. Allora, beh, cubano, ma va bene anche italiano, non c'è problema, non sono razzista verso gli italiani. Come mai questo fascino cubano? Ma è una cosa un po' innata, nel senso, no, la passione mi è nata anni fa, quando ho conosciuto un ragazzo cubano. Sì. Poi quest'anno ho fatto una crociera ai Caraibi, in cui sono passata a Cuba, e da lì è scoppiata la passione. Oh, colpo di fulmine, sì. Vabbè, cubani a Milano, ce ne sono. Sì, va, non posso lamentarmi. Di Cuba è pieno, eh. Esatto. Anche, esatto. Comunque no, a parte gli scherzi, non chiedo niente di speciale, semplicemente che in una relazione voglio ridere. Sì. Proprio voglio divertirmi e soprattutto voglio fidarmi ciecamente. E anche un pizzico di gelosia, però ci deve essere. Io un po' mi sono commosso. È molto calabrese il pizzico, sì, di gelosia, visto che l'hai, sì, accennato prima. Sì, sono calabrese come mia cugina. Però posso aggiungere? Aggiungi. Che non siano sposati o che abbiano figli. No, beh, certo, ovvio. Ah, scusi, pensavo fosse una caratteristica più o meno fondamentale. Cioè, fondamentale per lei, che ha le calamite. Nemmeno fondamentale, una caratteristica di base. Sì, esatto. Bene, quindi stiamo cercando anche di aiutare, anche le testimoni e le amiche della nostra Chiara. Arrivare un giorno al grande giorno del matrimonio. Sì, anche perché prima o poi Chiara vorrebbe mangiare, cioè non solo organizzare e far mangiare gli altri, ma vorrebbe starsene un po' seduta, giusto, tranquilla, giusto, e mangiare anche lei. E allora dicevi, ci conosciamo da 6 e ci siamo insieme da 5. Torniamo a quella cosa fondamentale. Sì, no, perché io purtroppo ho il ruolo di quello che ogni tanto deve recuperare il filo del discorso, e in quell'anno lì volevo capire se c'è stato un avvicinamento, un tipo i cani che si sono un po' annusati. Tra il sesto e il quinto, dici, tra i primi due. Tra il sesto e il quinto, brava. C'è stato un po' di annusa, oppure c'è stato... Menefreghismo totale. Brava, quello. Proprio tipo repellente. Ma proprio c'è uno da una parte e l'altro dall'altra. Tipo, chi sei? Mamma mia, vado dall'altra parte. Fantastico. Normale. E poi? E poi, dottor Strane Amore. Ci ha pensato lei. Ci hanno pensato loro con la scaglia della... La freccia. La freccia, la freccia. Bene, bene. L'importante è che le cose finiscano nel modo corretto, esatto, e che finiscano bene. Questo è quello che conta. Allora, ti facciamo tantissimi auguri, Chiara. Grazie. E ti ringraziamo. Vedi, lui può essere il tuo uomo tipo, secondo me. Vedi, così violento. Cioè, quando intendo ridere non intendo proprio, cioè. Ah, ok. Ah, non quel ridere, non nel quel senso ridere. Che mi mette in imbarazzo. Esatto. Ah, ok, perdonami. No, se vuoi anche tenermi vivo il computer, che quello mi serve, ti ringrazio. No, è perché si era eccitata a vederlo e quindi ha avuto un. Mi si sono partiti gli ormoni. E bene, bene, dicevo, quindi tanti auguri a. Cosa? Vabbè, evitiamo. Le partono spesso gli ormoni? Ah, vabbè, insomma, è un po'. Hai l'ormonite? No, è il corazon caliente. Ah, lei, esatto, è ancora a Cuba, non se n'è ancora andata. Esatto. E quindi, cioè, diciamo che si è portata a casa a Cuba, se l'è trapiantata nel sangue e la esprime anche a Milano. Io sono a Cuba, quindi forse stava. Ah, sì, esatto. Tutto ciò che lei, tutto ciò che ha uno spigolo la affascina. Cioè, lei, tutto quello che è spigoloso non riesce a trattenersi perché è appassionata di cubi e cubani. E quindi, bene, bene, bene. Allora, dicevamo, tanti auguri a Chiara, che ricordo si sposa, anche se, questo, se frega poche persone, però a noi interessa. E vi auguriamo una buona fine serata, visto che c'è ancora un po' da divertirsi, grazie, e da ballare. E un buon ritorno a Milano, non so se tornerete. Domani mattina dormiamo qua. Ah, bene, bene, e poi tornerete nella vostra Milano. Ok, grazie ragazze, volete salutare qualcuno prima? Grazie a Web Radio, intanto la radio di... Anch'io, ciao Luigi Web Radio che ci stai guardando. Grazie, e niente, salutiamo tutti i nostri amici e la nostra famiglia, vabbè. Che se ne sono andati nel frattempo, esatto, sono scappati. Vabbè, ovviamente un saluto particolare a Cuba. Beh, giusto. Ciao Fidel, sempre nei nostri cuori. Ah, tu Chiara vuoi dire qualcosa? No, grazie. Saluta Luca almeno. Saluto Luca, che sarà in quale braccio, non so chi in questo momento. Beh, ma non ci pensare. Ma non ci penso. Non ci pensare. Talker qua dietro. No, lavora con noi questo. Sì, no, l'abbiamo già conosciuto a pieno. Niente, grazie alle mie amiche, testimoni della stupenda serata che mi hanno... No, credevo della stupenda sposa. Testimone della stupenda sposa, era bellissimo. Beh sì, lei è egocentrica, allora, esatto. Quindi poteva dire. Però lo sai più tu in questo momento. Va bene così. E vuoi dare il tuo contatto mail a tutti i single che volessero rivolgersi a te? Crea un gruppo WhatsApp. Lo creerò. Esatto. Simone Debora, è forte. stranamore.it. È una professionista. Sì. Grazie mille ragazze, buonanotte, grazie, alla prossima. A voi, buonanotte.